Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici, quelli che intendi, possibili nemici, loro che ti tiravano su, conoscendoti di più se lo vogliono tu. Sei quello che ricade giù, vita da vivere da soli, senza tipe non proveremmo amori, sarebbero meno i dolori, gli amici invece li teniamo, ma che dolore quando ci infamiamo, roviniamo. Per questo vita da vivere da soli, senza paura, in mezzo alla natura, non chiedere a nessuno scusa. Stufo di emozioni rovinate, stufo di troppe stronzate, le mie emozioni in un testo raccontate, per far capire a chi mi sente che a causa degli amici puoi soffrire veramente, lo dico. Dopo un'estate sprecata, accompagnata da una rima baciata su dei pezzi di carta stracciata, vorrei qui la mia parte innamorata, ma senza lei un'altra giornata è passata, è un'estate rovinata. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici, quelli che intendi, possibili nemici, loro che ti tiravano su, conoscendoti di più se lo vogliono tu, sei quello che ricade giù. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici, quelli che intendi, possibili nemici, loro che ti tiravano su, conoscendoti di più se lo vogliono tu, sei quello che ricade giù. Stare troppo in alto, guarda in basso, terrai d'occhio la possibile caduta, meno pericolosa se conosciuta. Se cadi rialzati, ma non sul momento, potrebbe ricaderti addosso tutto l'universo, ti sentiresti perso, pensa a come sei arrivato qua giù, giù a te stesso quell'errore, non rifarlo mai più. Ma fai occhio, non sbagliare il doppio, gli altri di te si devono poter fidare o ti daranno della sociale, se lo dico è perché l'ho vissuto, se l'ho vissuto. Gli altri di te si devono poter fidare, ti daranno della sociale, se lo dico è perché l'ho vissuto. Ora su uno scoglio guardo il fiume e resto muto. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici, quelli che intendi, possibili nemici, loro che ti tiravano su, conoscendoti di più se lo vogliono tu, sei quello che ricade giù. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici, quelli che intendi, possibili nemici, loro che ti tiravano su, conoscendoti di più se lo vogliono tu, sei quello che ricade giù. Vita da vivere da soli, un altro testo, se mi chiedi il senso, sto muto in silenzio, poi mi riprendo. Fidarsi bene, non fidarsi è meglio, dopo un tradimento, di certo non mi svengo. Vita da vivere da solo, come la luna, da solo in cerca di fortuna, qualcuno che mi voglia davvero bene, una ragazza a conquistare insieme, emozioni intense, piene, vere amicizie, parlate parti toni, calcio i primi veri, grandi amori. Ah, scrivo tutto mentre sto crescendo, guardandomi allo specchio, guardando una lacrima che sta scendendo, e guardando il mio riflesso, guardando il mio riflesso, guardando il mio. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici, quelli che intendi, possibili nemici, loro che ti tiravano su, conoscendoti di più se lo vogliono tu, sei quello che ricade giù. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici, quelli che intendi, possibili nemici, loro che ti tiravano su, conoscendoti di più se lo vogliono tu, sei quello che ricade giù.